dragato marie fiumi, carezzato cieli aperti, ho scavato strade e fossi, pettinato alghe deserti, ho viaggiato in guardato solo dove il vento va, sperato come il vento sa, spremuto pugna volontà. Ho guidato affari spenti nella via, tracciato in cuore la mia scia, per ritrovarmi ovunque sia. Ho scalato dritti i muri, rocce aguzze a nude mani, stretto tra crateri e solchi, con le spine sotto i piedi, ho sputato via i veleni, sangue e denti dei miei morsi, ossi e semi dei miei frutti, i cristalli dai miei sorsi, ho cercato solo noi, li puoi toccare se lo vuoi, senza però afferrarli mai. Dunque affido i miei